Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche delle banche Popolare di Vicenza e Veneto Bank, visto che, come oggi in apertura su Sole 24 Ore e anche su altri giornali chiaramente, ieri è stato sventato, diciamo così, o perlomeno scampato pericolo, questo possiamo dirlo. In ballo c'era la decisione di carattere europeo se le due banche dovessero ritenersi, diciamo, passibili di bail-in, e quindi con un problema non da poco poi per, oppure potessero essere aiutate dal fondo salva banche senza appunto che questo venisse considerato aiuto di Stato. Il tema qual era? Se le banche, come nel caso è avvenuto anche del Monte dei Paschi di Siena, se le due banche vente vengono viste come due banche ancora solvibili, non c'è bisogno del bail-in e quindi puoi fare come con Monte dei Paschi, utilizzare soldi pubblici per ricapitalizzare. Se invece fossero state ritenute non solvibili, a quel punto invece avresti dovuto applicare bail-in. Per fortuna la Banca Centrale Europea ha espresso un giudizio positivo, dico per fortuna dei correntisti, degli obbligazionisti, non degli azionisti, perché gli azionisti di quelle due banche già hanno già avuto un danno enorme dal modo e dal valore in cui sono stati collocati i titoli. Ricordate la vicenda: 67 euro per una, 37 per l'altra, per poi arrivare a zero sostanzialmente di valore. Tra l'altro, nel giorno in cui mi riferisco a ieri, Veneto Banca ha diffuso i conti che evidenziano un rosso da 1.500 milioni di euro, principalmente per le rettifiche sui crediti deteriorati, 1.200 milioni. 1.900 milioni di euro li perde invece la Popolare di Vicenza. Il dato è dello scorso 28 marzo. C'è anche un calo della raccolta del 14%. In questo momento il controllo delle due banche è interamente del Fondo Atlante, che ha sottoscritto completamente le ricapitalizzazioni effettuate nel 2016, versando nel complesso 2.5 miliardi di euro. Il punto è che le due banche da sole non possono vivere. Adesso, se non è più necessario il bail-in, ma ne parleremo più avanti, si andrà verso la fusione tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Allora, non ho detto che va tutto bene, ho detto che va bene per gli obbligazionisti e anche i correntisti. Ricordiamoci che il bail-in porta a coinvolgere anche i correntisti sopra i 100.000 euro. E di questo parleremo. Parleremo anche del mercato immobiliare. Qui la notizia è anche qui buona se uno della casa la deve vendere, meno buona se la deve comprare. Però complessivamente, diciamo, un risveglio del mercato immobiliare è di solito accolto e letto come un leggero risveglio dell'economia. Perché lo dico? Perché per la prima volta dal 2011 c'è un segno più nell'andamento del mattone. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno c'è il primo aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni del quarto trimestre 2011, più 0,1%, poca roba, uno dirà, però è intanto un segno più, anche perché nel 2015 il prezzo medio ha fatto meno 2,5%, nel 2016 ha fatto meno 0,7%, quindi c'è complessivamente ancora un segno negativo nel 2016, ma che ha cambiato nell'ultimo trimestre. Tra l'altro, poi andremo ad analizzare dove e come, perché sappiamo che questo dato diffuso dall'Istat nulla ci dice se non che c'è un poco di risveglio complessivo nel settore. Parleremo anche dei ticket sanitari. Perché? Perché oggi il ministro Lorenzin ha convocato negli uffici del Ministero la riunione con la Commissione Salute, ma vorrebbe arrivare a una eliminazione del ticket e trovare forme compensative adeguate per non creare un buco nei conti della regione. Cercheremo di capire come sia possibile, perché già mi sembra che il governo sia alle prese con una manovra in cui deve, come abbiamo spiegato ieri, disincentivare le clausole di salvaguardia, quindi l'aumento da 18 miliardi di IVA e accise l'anno prossimo. deve trovare i soldi per fare quell'operazione su chi ha meno di 35 anni di decontribuzione per 3 anni, se abbiamo ben capito le parole. Deve anche trovare adesso 2 miliardi e 400 milioni, oggi Gentiloni ha detto, ma insomma, li troveremo anche attraverso la rottamazione delle cartelle, poi vi arriviamo. Non so se sia il caso anche di trovare 3 miliardi, per comunque insomma il ticket alle regioni vale 3 miliardi, i ticket per le regioni valgono 3 miliardi, quindi o li ottengono con i ticket o li ottengono diciamo con altri trasferimenti. Certo, il gettito complessivo del Fondo Sanitario Nazionale è 113 miliardi. Faccio notare che i ticket sono però gestiti in maniera autonoma dalle regioni. Tra l'altro, alle spese per i ticket in questo paese si devono aggiungere altri 40 miliardi di euro spesi ogni anno per ricorrere a prestazioni sanitarie private e quindi non utilizzando la sanità pubblica. Con cosa apriremo invece, visto che questi temi li affronteremo anche più avanti? Beh, molto semplicemente parleremo del Salone del Mobile di Milano, che non è il Salone del Mobile di Milano, è l'evento fieristico più importante, poi la prossima settimana c'è anche Vinitaly, per carità, ma senza nulla togliere al settore vitivinicolo o al settore dell'agroalimentare, come mi riferisco al Cibus, è innegabile che ormai l'espansione del salone in tutta la parte fuori salone e il totale complessivo di metri quadri occupati sono 200.000 metri quadri di superficie, più di 2.000 espositori, il 30% esteri, 300.000 visitatori da più di 165 paesi. E solo gli ultimi 2 giorni sono aperti al pubblico, perché poi ci sono le manifestazioni che si svolgono in contemporanea. È calcolato l'impatto economico del Salone del Mobile, che ormai, ripeto, come sanno quelli che sono venuti a Milano, significa fuori salone, significa anche commistione con la moda, con il vino, con quant'altro. L'impatto economico vale 230 milioni di indotto. Abbiamo commentato, ma non era una critica, è un dato di fatto, dico attenzione, che il costo delle camere d'albergo sia cresciuto del 156% rispetto alla settimana precedente, in media 460 euro a notte. Oggi l'ha inaugurato il Presidente della Repubblica Mattarella, di questo e ascolteremo anche alcune dichiarazioni su questo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La borsa dunque oggi è poco mossa, meno 0,09, invariata. Parigi più 0,1, invariata anch'essa, come Francoforte più 0,1, Londra più 0,4, Dow Jones più 0,1. Ma al di là dell'indice, in realtà ci sono dei movimenti anche abbastanza sensibili dentro il listino. Saipem meno 2,80, Telecom meno 2,40, A2A meno 2,30, IUX Net-a-Porter meno 1,80 come Ferragamo, Generali meno 1,5 come Ubibanca, Moncler più 1,70, Campari più 1,60, Tenaris più 1,40 come Prismian e Recordati, Unipol più 1,20, Banca Generali più 1%. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Petrolio a 50 dollari al barile, leggero aumento oggi dell'1%. Dagli Stati Uniti arriva un'altra notizia che riguarda, diciamo, le misure nei confronti degli stranieri. L'amministrazione Trump sta studiando infatti misure più drastiche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti, anche per i paesi e per i turisti provenienti da paesi amici come Francia, Germania e Italia. Si ipotizza un controllo dei contenuti dei telefonini, dei social o anche dei conti bancari. Si parla anche di interrogatori sulle opinioni politiche. Questo è abbastanza singolare, no? Ma chissà, la cosa interessante sarebbe, ma l'opinione politica è quella relativa al governo statunitense, cioè avresti votato la Clinton o Trump, oppure relativa ai 5 Stelle, al PD, alle primarie del PD, agli scissionisti del PD. Cioè, interessante arrivare al confine a New York, alla dogana, e sentirsi chiedere: ma lei preferisce Orlando, Emiliano, Grillo, Renzi? Comunque, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Chi ha più di 30 anni ricorda ancora bene, probabilmente, quando bisognava dichiarare di non essere mai stati iscritti al Partito Comunista per poter entrare negli Stati Uniti anche per solo turismo. Ebbene, queste erano cose dimenticate, ma potrebbero presto tornare. L'amministrazione Trump ha infatti deciso di lanciare una nuova manovra di stretta sui visti d'ingresso negli Stati Uniti, includendo però non soltanto i cittadini medio orientali, ma tutti i 38 paesi che attualmente godono di un ingresso privilegiato nella concessione dei visti per turismo o per lavoro. L'operazione, che ha già destato clamore e scandalo, prevede sostanzialmente che chiunque intenda entrare negli Stati Uniti, naturalmente con un visto, dovrà non soltanto dichiarare l'appartenenza a un partito politico, nel caso ci fosse, o la propria ideologia, ma addirittura rivelare gli indirizzi del proprio telefonino, del pad, le password per accedere ai social network e tutto ciò che ha avuto interazione con una persona tra social network, blog, internet e l'ingresso negli Stati Uniti. L'operazione tende evidentemente a individuare altre potenziali minacce terroristiche, ma in questo clima è sicuramente destinata a portare nuove polemiche sull'amministrazione Trump. Questa volta non si tratta infatti di stringere per i paesi del Medio Oriente, ma sostanzialmente di cambiare le regole del gioco nei rapporti commerciali e turistici nella comunità internazionale. Comunque finirà, una cosa è certa: l'amministrazione Trump sta cercando di fare di tutto per dare la sensazione di fare ciò che ha promesso nella campagna elettorale. Certo che bisognerà vedere la reazione dei giudici. L'America è il paese del check and balances e nessun provvedimento del Presidente, esecutivo o meno, può passare nella realtà senza essere prima vagliato da una corte federale. In occasione dei visti per il Medio Oriente, le due manovre sono state bloccate. Vedremo che succederà con questa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo avanti con l'altra notizia in breve. Qualcuno mi sta scrivendo anche dei prezzi di alberghi, chiede invece che 560 euro a notte, prezzo standard adesso questa settimana da 2.000 a 3.200. Capito? Allora, per correttezza, mi hanno fatto notare molti ascoltatori che anche quando vai a Basilea o in altre fiere all'estero, se la città... sono città un po' più piccole di solito, però insomma che ci sia un effetto boom sulle camere quando hai eventi fieristici, poi che se sia contro, più o meno controproducente, questo ci dovranno dire i flussi. Invece andiamo avanti con le altre notizie, scusate. Per quello che riguarda l'Europa, oggi Mario Draghi, aprendo un evento a Francoforte per, in occasione dell'entrata in circolazione della nuova banconota da 50 euro, ha detto: malgrado le difficoltà degli anni recenti, il sostegno alla moneta unica nell'area euro raggiunge attualmente il 70%, un livello pari ai massimi registrati prima della crisi. Per quello che riguarda l'Italia invece, oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan è intervenuto all'assemblea dei deputati PD alla Camera, avrebbe detto, secondo quanto però riferiscono fonti interne, di essere personalmente molto contrario alla moratoria sulle privatizzazioni, perché servono sia per abbattere il debito che per rendere anche più efficienti le aziende pubbliche. Poi avrebbe aggiunto: la correzione dei conti dello 0,2% del PIL chiesta dall'Europa, 3 miliardi e 400 milioni di euro, sarà fatta nella manovrina in arrivo, qualche giorno dopo il documento di economia e finanze, sarà fatta con le risorse della lotta all'evasione, compreso un nuovo round di rottamazione delle cartelle e con alcuni tagli alla spesa. Veniamo a Milano e alla Procura di Milano. Il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, in un'audizione alla Commissione Industria e Finanze del Senato sul disegno di legge di regolamentazione fiscale delle attività delle multinazionali del digitale, e io su questo sono d'accordissimo, cioè è scandaloso che le multinazionali del digitale paghino le tasse laddove non fatturano, perché gli è consentito dall'Europa, lo so, non mica sono dei, mica sono dei banditi, però attenzione, insomma, non è accettabile. Ha ricordato Greco che ci sono al momento procedimenti aperti nei confronti di Google, Amazon e Facebook. Ci sono enormi problemi in sede di accertamento e di investigazione, di queste multinazionali. La Guardia di Finanza ha indicato alcuni di questi problemi. Tutti i gruppi che abbiamo investigato hanno aderito all'accertamento fiscale. Questo è significativo del fatto che qualche problema loro ce l'hanno quando si muove il fisco. E nello specifico ha raccontato Greco che la Procura di Milano hanno avuto un procedimento nei confronti di Apple, che si è definito come l'azienda ha pagato 310 milioni di euro di tasse, no? Per chiuderlo. Dicevamo dell'Istat sui prezzi delle case. Oggi l'Istat diffonde anche i dati, vabbè, sul deficit nel 2016 al 2,4%, è sceso di un 0,3% rispetto al 2,7% dell'anno precedente, mentre per quello che riguarda i profitti delle imprese c'è una leggera ripresa. La quota di profitto delle imprese risale nel 2016 raggiungendo il valore annuo più alto degli ultimi 5 anni. Sulla spesa delle famiglie c'è un leggero movimento, più 1,3%, però nel 2015 era cresciuta dell'1,5%. Il potere d'acquisto è cresciuto nel 2016 dell'1,6%, è chiaro che è ancora più basso rispetto al pre-crisi, ma come crescita di potere d'acquisto è la più alta dal 2001 come crescita. Poi arriva però Federconsumatori a riferire, a ricordarci che in 10 anni le tariffe dei servizi essenziali, elettricità, gas, acqua, trasporti e via così, sono aumentate del 34%, più del doppio rispetto all'inflazione che ha fatto più 15%. L'acqua potabile ha avuto una tariffa quasi raddoppiata, più 89%, seguono la raccolta dei rifiuti più 52%, trasporti ferroviari più 46%, in calo solo la telefonia, meno 15%. Una buona notizia e una brutta notizia, almeno dal mio punto di vista. La buona, penso che siamo tutti d'accordo, riguarda l'iniziativa da casa di moda Gucci, che finanzierà con 2 milioni di euro la valorizzazione del patrimonio botanico del giardino di Boboli, anche il restauro del giardino di Boboli, quindi dietro Palazzo Pitti a Firenze. Lo ha annunciato oggi Marco Bizzarri, presidente numero uno di Gucci, e assieme al sindaco di Firenze Dario Nardella. Questo segue altre iniziative, ricorderete della Valle sul Colosseo, ma non solo, che vedono quello che si chiama mecenatismo moderno. La notizia per me brutta, nel senso che è una notizia assurda, che ancora comunque i lavori sono ancora fermi oggi a San Foca, Marina di Melendugno. Dacci oggi il nostro ulivo quotidiano, la TAP. Il 20 marzo sono iniziate le operazioni di eradicazione di 211 ulivi, ma adesso il presidio permanente istituito dai No TAP nell'area del cantiere continua a essere animato da numerosi manifestanti che hanno istituito delle ronde per monitorare 24 ore al giorno tutti i presidi. Hanno bloccato le strade di accesso all'area del cantiere, continuano a essere sbarrate dai nomi barriere rette dagli attivisti con pietre e materiali di risulta, in alcuni casi raggiungono anche i 2 metri d'altezza. E, tra l'altro, un centinaio di manifestanti ha trascorso la notte nel presidio. Alcuni attivisti sono arrivati da fuori, ospitati nei bed and breakfast, bene. Si sono uniti insieme una 30ina di giovani provenienti con furgoncini e camper da Torino e dalla Val di Susa. E poi un documento appello per chiedere la sospensione dell'attività in corso del progetto TAP. È stato inviato da 94 comuni assieme a parlamentari e consiglieri della Puglia. Vedete che però, se non voglio fare polemica ogni giorno sulla TAP, ma quando sono 94 comuni, ognuno della provincia di Lecce e di 30 parlamentari, il problema non sono più gli ulivi, cosa che abbiamo sospettato fin dall'inizio. Il problema è che non si vuole il gasdotto, punto e basta. Gli ulivi sono una grandissima balla, come era presumibile la salute di 220 ulivi in una regione che ha commerciato in nero ulivi per anni, ulivi secolari, protetti, non ulivi quelli che legalmente si possono commerciare. Ma dai, non si vuole il gasdotto lì, punto e basta, lo si vorrebbe da altre parti, ma Brindisi abbiamo già spiegato che è una zona nella direttiva Seveso ritenuta a rischio. Il sindaco citato da Emiliano dice no, ma non abbiamo mai detto di sì, se ci cambiate la centrale da carbone e levate il carbone dalla centrale potremmo anche pensarci. Di fondo nessuno vuole il gasdotto e basta. Dunque, non capisco un messaggio che mi arriva sul corsa urbana, nemmeno una passata. No, non ho capito. 50 euro per una corsa urbana, non so. I taxi, però, abbiate pazienza, che mi sta scrivendo sul Salone del Mobile di Milano. I taxi non hanno un listino diverso nei giorni del salone. È probabile che, voglio dire, con il traffico che c'è nella città, uno ci abbia messo anche molto. Qual è il futuro energetico di questo paese? Le trivelle, il gas, il metano. Allora, rifaremo la puntata sull'approvvigionamento energetico. Abbiamo sempre detto che è importante il fotovoltaico e quel poco di eolico che si riesce a fare. Il fotovoltaico ha qualche problema di garantire la continuità, soprattutto per energie di carattere industriale, ma per quanto noi possiamo investire in fotovoltaico, si può pensare di raddoppiare, arrivare un po' sopra il 10-15%. Ma nel frattempo non c'è un paese, forse non è che siamo solo noi, che stia dicendo: ragazzi, andiamo avanti solo a green. Non ce n'è uno, neanche i paesi del nord Europa. Sono tutti impazziti? Beh. Vabbè, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Faremo la puntata e anche sui paesi, quanto è l'incidenza massima di rinnovabili. So benissimo che la Danimarca e l'Olanda, con le maree, con il vento che hanno un potenziale, diciamo. Poi c'è qualcuno che mi dice che vedere le pale eoliche è peggio che non vedere un gasdotto quando deturpi le colline e il paesaggio. Ragazzi, ho capito, siamo mai contenti. Andiamo sul primo tema, il Salone del Mobile, che significa non solo indotto importantissimo, 230 milioni in pochi giorni di indotto per la città di Milano, ma anche e soprattutto uno dei quattro assi portanti del nostro Made in Italy, ossia il sistema del legno arredo. Eccolo che è arrivato il genio. Lei è fissato con il gas, forse perché è pagato dal TAP. No, guardi, non mi fanno neanche lo sconto nella bolletta di casa, ma io non penserei mai che lei, bloccando il TAP e facendo un grosso piacere a Putin, che mantiene il canale d'accesso unico del gas all'Italia, è pagato da Putin. Abbia pazienza. E quanto, insomma, a mestolare, a rimestare. Allora, 56esima edizione, dicevamo, il dato del settore legno arredo, che vuol dire 321.000 dipendenti, quasi 80.000 imprese, un fatturato di 41 miliardi l'anno scorso, più 2% sul 2015, il 40% quasi è destinato all'export, 15 miliardi e mezzo, verso la Cina più 18,5, verso gli Stati Uniti più 8%, Francia più 5, Spagna più 5,6, sono i dati di ieri. L'Italia praticamente da sola fa il 30% a livello mondiale, ed è a livello dell'area euro, dell'intero export del settore legno arredo. Quindi da soli valiamo un terzo di tutto quello che l'Europa riesce a esportare. Legno arredo non è solo design, è anche, diciamo, l'arredamento normale, però la vetrina più importante per mantenere il ruolo di leadership mondiale, non lo dico senza problemi, resta il Salone del Mobile di Milano. Ha seguito l'inaugurazione oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, la nostra Marta Cagnola. Marta, buonasera. Buonasera Sebastiano, non è un particolare a caso dire alla presenza del Presidente della Repubblica, evento storico, non era mai successo, te lo stavo per chiedere, non è mai stato inaugurato dal Presidente della Repubblica, no? Non era mai successo, quindi un segnale importante, perché insomma una testimonianza del valore del settore proprio per l'intera economia italiana, ma non solo, perché il presidente Mattarella ha auspicato una rinascita economica che però una ripresa economica che però si accompagna a una ripresa civile. Ripresa economica e ripresa civile possano saldamente coincidere in una stagione che rinnovi fiducia sempre maggiore. Mi sembra un po' la chiave di questa presenza di Mattarella, che però ha parlato anche del settore, era molto informato, ha dato moltissime cifre, ha dato cifre molto precise, e come si aspettavano le presenze istituzionali del Salone del Mobile, ha anche chiesto un sostegno da parte delle istituzioni al Made in Italy. Non so, Sebastiano, se vuoi sentire questo intervento di Mattarella, perché appunto è stato molto applaudito, probabilmente perché appunto molto atteso. Partecipare oggi all'apertura del Salone assume un significato particolare. È come la conferma di un sentimento di consapevolezza e di fiducia nelle risorse che l'Italia sa proporre. La capacità di innovazione e di creatività che la filiera del legno e dell'arredo sa esprimere in un ambito manifatturiero maturo come questo testimonia che l'industria italiana è in grado di affrontare con successo i mercati internazionali, traendone benefici positivi per sé e per tutti i partner coinvolti. La formula vincente del Made in Italy, del Made by in Italy, che sa mettere insieme l'esportazione dei nostri prodotti e l'affermazione nel mondo di tecnologie, materie prime, approccio ai mercati, stile di vita italiani, incalza il sistema delle imprese in tutti i settori e interpella il sistema pubblico perché sappia essere di sostegno efficace. L'Italia è il quinto paese al mondo per saldo nell'attivo della bilancia commerciale, dopo Cina, Germania, Sud Corea e Giappone. A sottolineare il beneficio che deriva all'economia del nostro paese dall'abbattimento delle barriere doganali, specialmente in Europa. Grande è il risultato ottenuto dalla comunità internazionale nell'allargare gli orizzonti che consentono anche ai paesi medio-piccoli, qual è il nostro, di inserirsi meritatamente con le proprie capacità competitive su mercati molto più ampi di quello domestico. E giustamente il Presidente della Repubblica ha ricordato che siamo il quarto paese al mondo come saldo commerciale, cioè differenza tra quanto importiamo e quanto esportiamo come saldo attivo nella bilancia commerciale, appunto Cina, Germania, Sud Corea, Giappone e poi arriviamo a noi. Non è male in una classifica del genere, c'è solo la Germania a livello europeo che regge il confronto con noi. Marta, resta con noi perché invece poi vorrei entrare nel vivo delle sfide del Salone, ma anche giro d'affari con altri interventi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. C'è prima il meteo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, Marta Cagnolo, agli altri interventi, al di là del sindaco Sala che ha detto bisogna puntare in alto assieme e si riferiva anche, diciamo, alle sfide, Radio 24 partirà con un viaggio fra due settimane sulle sfide non solo di Milano, dell'Italia, in primo luogo nell'attrarre tutte le attività finanziarie in generale europee, penso all'ente del farmaco che se ne dovranno andare da Londra, ma non solo, c'è anche l'ipotesi del polo del Tecnopol e del polo universitario nell'ex area Expo. Dicevo, il presidente del Salone del Mobile, Luti, su questo è intervenuto, no? Cioè... Sì, ha parlato assolutamente della ricchezza della fiera, che è un momento di cultura d'impresa, è un modello per il paese ed è, per citare la settimana enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione in tutto il mondo, ma non c'è ancora riuscito nessuno. Basti pensare che questa settimana arriveranno circa 300.000 visitatori da 165 paesi per il Salone del Mobile, che è una grandissima occasione per mostrare la creatività, e ce l'ha proprio raccontato il presidente Claudio Luti. È riconosciuto come il Salone della Creatività, qui tutte le aziende, piccole, medie e grandi, si sforzano per presentarsi con uno stand nuovo per far vedere tutto il lavoro che hanno fatto quest'anno. Addirittura riescono a trascinare aziende straniere che di solito non fanno innovazione, quando si presentano a Milano devono venire con qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo solo bisogno che ogni azienda continui nel suo rafforzamento della sua identità, è quello che fa grande Milano, avere tante identità diverse, tutte con questo spirito creativo. È proprio l'imprenditore che riesce a relazionarsi molto bene con design italiani e design esteri. Tutti i design vorrebbero venire a lavorare a Milano, gli studenti alzano la mano e dicono: come faccio a venire a Milano? Il Salone Satellite è una strada per i giovani, le aziende sono una strada per quelli affermati. Il Salone Mobile è un grande brand che racchiude questa idea, questa identità, questa emozione. Racchiude questo cuore palpitante di tutta Milano. È chiaro che è un grande brand e abbiamo le possibilità di esportare questo brand. Dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo fare delle operazioni che siano fatte bene, di grande qualità, perché se no danneggiamo il brand. Quindi torneremo a Mosca, che ormai sono tanti anni che andiamo a Mosca, siamo ormai in una situazione affermata, e cercheremo di fare ancora la Cina, con la quale abbiamo iniziato l'anno scorso a Shanghai, e quindi stiamo cercando di pensare come fare per fare ancora più bella la nostra presenza in Cina. Le iniziative chieste invece, insomma, il settore ha goduto, Marta Cagnola, comunque del bonus mobili, certo, in questi anni, per quello che riguarda i consumi italiani. Adesso ci concentriamo sull'Italia, non più sull'estero. È stato fatto un riferimento anche oggi durante l'inaugurazione a questo? Ne ha parlato il presidente di Federlegno Arredo, Emanuele Ortini. Ha detto che appunto il bonus mobile ha generato un fatturato di 4 miliardi di euro, però ha auspicato la ripresa del bonus alle giovani coppie, perché ha ricordato le aziende, il 70% delle aziende del settore del legno vuole assumere nei prossimi anni. Si parla da qui al 2020 di altri 31.000 posti di lavoro, sappiamo magari che sono 321.000 nel settore, quindi la ripresa del bonus alle giovani coppie potrebbe assolutamente rappresentare un nuovo impulso. Abbiamo parlato anche con Emanuele Ossini, appunto presidente di Federlegno Arredo, di questo e anche appunto dell'importanza, come dicevamo appunto in apertura del collegamento, quello che ha citato il Presidente della Repubblica Mattarella, dell'aiutare le imprese a mantenere questa grande presa sull'export del mobile. Il nostro compito in questo momento è di accompagnare le nostre imprese all'estero e creargli più opportunità possibili. Il nostro settore, che vale circa 20 miliardi di fatturato, di cui sono 9 miliardi e 2 per l'Italia e 10 miliardi e 8 per l'estero, 80% delle nostre imprese sono medio-piccole, quindi è logico che non possiamo perdere di vista il fatto che l'estero è sicuramente fondamentale per la crescita delle nostre aziende, ma è anche vero che dobbiamo assicurarci che il lavoro venga anche generato in Italia, per prodotto in Italia, per il mercato italiano, perché è ancora sempre più facile per poter essere gestito dai medio-piccoli. La salvaguardia del lavoro per noi è importante. In Italia siamo riusciti a gestire questa salvaguardia anche grazie al bonus mobili, un momento che noi ha dato tanto, anche perché il mercato italiano 2016 su 2015 è riuscito a ottenere un 3,1%, che per noi è un dato importante, che ci dà ben speranza di crescita. Vediamo un paese come gli Stati Uniti, perdiamo 1 miliardo di fatturato, che equivale al 10% del nostro comparto estero, che questo è un problema enorme e questo problema non possiamo perdere di vista. Quindi noi aspettiamo che l'Europa prenda veramente dei provvedimenti in un certo senso che possano gestire gli interscambi economici, che per noi è fondamentale. Paesi che sta andando benissimo, perché la Cina, anche se in settimo posto, ha fatturato 320 milioni di euro di fatturato, però secondo le nostre previsioni potrebbe crescere del doppio da quei prossimi due anni, facendo alcuni carotaggi, io li definisco, in Messico, in Iran e in Sudafrica, perché credo che siano paesi che possono ospitare, in ogni modo ci possono essere parecchi nostri clienti, potenziali clienti, per acquistare i nostri prodotti. Allora, grazie a Marta Cagnola, che appunto oggi ha seguito l'inaugurazione del Salone del Mobile alla presenza del Presidente della Repubblica. Qualcuno mi fa notare che se gli alberghi sono troppo cari a Milano, fatevi furbi, prendete l'Eurostar, buonanotte, la Freccia Rossa. A Reggio Emilia, a Bologna ci sono tanti alberghi a prezzi più accessibili. Sì, onestamente, uno, vista la distanza, anche a Torino posso aggiungere, allora non voglio far torto a nessuno, anche a Brescia volendo, però insomma non c'è il Freccia Rossa, per cui meglio forse Torino, Reggio e Bologna. Qualcun altro mi fa notare che gli 220 ulivi su cui si sta agitando la protesta, che stanno bloccando la TAP, il gasdotto TAP, sono comunque destinati a morire perché c'è la xylella. Ma guardi, io non lo so, non conosco i singoli olivi, ogni singolo Ulivo del 221, so solo che sono solo una scusa. Il punto è che non si vuole il gasdotto. Punto. Basta. Tutto il resto avranno sempre un motivo, qualunque cosa. Basta. Tra l'altro, alcuni mi scrivono: guardi che sono solo 1000 che protestano. Noi, ho capito, però il problema è sempre questo: che quando protestano 1000 ti bloccano un'opera, ne risente il resto del paese. Andiamo sul traffico, va. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Focus Economia. Chiedo venia ai bresciani. Esiste Freccia Rossa per Brescia, ci mette 32 minuti. Va bene, era un modo per dare qualche altro consiglio. No, esiste Freccia Rossa, ci mette pochissimo tempo. C'è poi chi mi dice: allora, se è così, visto che il gas in Italia arriva, qui parliamo del TAP, da Tarvisio, abbiamo tutta la lista, in Sicilia, cioè, allora, al nord si tengono il gas che arriva da Tarvisio, in Sicilia si tengono quello che arriva dall'Algeria, e in Puglia, se vogliono il gas, usino quello del TAP. Non funziona così, è una rete di gas, però capisco il principio. Perché, voglio dire, i pugliesi usano il gas che passa da Tarvisio, giusto? Allora dovrebbero essere furibondi i friulani. Lì però quel gas non c'è, anche Tarvisio c'è, cioè le montagne, anche lì ci sono i prati, le mucche, voglio dire, le volpi, gli orsi, non lo so, no? La zona, come si chiama, del Cansiglio, spero di non dire una cavolata stavolta in geografia, però insomma è lì. Allora il gas va bene quando lo usi in Puglia per cucinarti la pasta, anche nelle Cese? Quello va bene, perché arriva da Tarvisio? Oppure arriva in Sicilia? No, se arriva sotto casa tua, va bene. Più zero niente, più invariata Milano, invariata anche quasi Francoforte, più 0,2%, Parigi più 0,3%, Dow Jones più 0,20%, Londra è la migliore oggi, mezzo punto percentuale. A2A meno 3%, Saipem meno 3% anch'essa, e poi Telecom Italia meno 2,70%. Come sempre il commento lo facciamo con Radio Corri sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. A2A, vabbè, viaggiava già su un livello alto, però mi sembra che insomma dopo il piano il mercato sia un po' freddino, però non di deluso, eh? Ma diciamo che ci sono due elementi. Fino a ieri il titolo ha guadagnato era ai massimi da 8 anni. Quindi era sostanzialmente raddoppiato. Ieri sono arrivati i conti con un dividendo oltre le attese, dei conti molto buoni, un MOL record nella storia della società, e quindi, come spesso accade, poi quando il titolo sale molto in attesa dei conti, poi il giorno dei conti, quello dopo, scende. Per quanto riguarda il piano, sì, sui numeri del 2017 c'è stata una certa prudenza, gli analisti non sono rimasti del tutto soddisfatti neanche da quello che dovrebbero essere il mix delle business line della società che porterà appunto a realizzare il MOL e l'utile stimati per fine 2017. Quindi diciamo, da una parte un po' di realizzi, dall'altra una certa leggera delusione del mercato. E invece su Saipem meno 2,96? Ma diciamo che Saipem invece era qualche seduta che era cresciuta abbastanza, anche assieme a alcuni titoli del petrolio. Oggi, nonostante che il petrolio sia salito dell'1%, invece ha subito diciamo un piccolo tracollo, meno 3%. Il titolo comunque alla fine della fiera, dopo un anno e oltre di aumento di capitale, non riesce a decollare, anzi non è un caso che la società adesso a breve in assemblea voterà l'accorpamento delle azioni, quindi 10 azioni ognuna. Andiamo avanti con gli altri titoli. Telecom Italia meno 2,60%, dicevamo. Bene Moncler di nuovo più 1,70%. Qui c'è l'attesa per il primo trimestre, se ho ben visto. E bene anche Campari più 1,40%, Unipol più 1,90%, Prismian più 1,80%. Campari e Moncler. Beh, su Moncler è già partito il conto alla rovescia per i conti del primo trimestre. Diciamo che il mercato se le aspetta in ulteriore crescita, si aspetta un fatturato in aumento del 14% e il titolo così continua ad aggiornare i massimi storici, sopra 20 euro e a 21 euro addirittura. Per quanto riguarda Campari invece, diciamo che c'è un'opinione positiva da parte di Mediobanca, che segnala Campari come, diciamo, una storia di successo con prospettive di lungo periodo molto, molto interessanti, e sottolinea anche la capacità della società, diciamo, di valorizzare le sue acquisizioni sostanzialmente. Allora, grazie intanto a Cioconi, adesso c'è GR24, poi darò anche delle risposte, visto che con la fiera il Frecciarossa ferma anche a Ropero, quindi si può tranquillamente dormire a Torino, a Brescia, benissimo. Chiedo bene per il Consiglio, questo è Vittorio Veneto. Molti mi scrivono sul piano energetico nazionale, sulle fonti alternative, di citare il caso dell'Alto Adige, di alcuni paesi che vogliono ridurre il fossile nei prossimi anni. Lo faremo. Faremo una puntata apposita. Il problema è capirsi sugli anni. Comunque la faremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso in rapida sequenza le banche venete, da un lato la proposta del ministro Lorenzini, la affronteremo domani sui ticket, e invece il mercato immobiliare, quello sì che è in leggero rialzo, ma per la prima volta i prezzi dal 2011. Partiamo dalle banche venete, come ormai le chiamano tutte. In realtà stiamo parlando della Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, ricorderete, fallite, salvate, ricapitalizzate dal Fondo Atlante, hanno perso tutto gli azionisti, gli azionisti che comprarono ai prezzi appunto di 67 euro per la Popolare di Vicenza e di 37, se non ricordo. No, 40. 40, come avete sentito prima ancora di presentarlo, è già intervenuto Fabio Pavesi del Sole 24 ore. Buonasera Fabio. Buonasera. 40 buonasera. Euro. Sono interamente contratto dal Fondo Atlante, che ha sottoscritto interamente la ricapitalizzazione effettuata appunto nel 2016 versando 2,5 miliardi, ma ne parliamo per un altro motivo. C'era una spada di Damocle non da poco, nel senso che se la Banca Centrale Europea avesse espresso un giudizio negativo sulla solvibilità, non si poteva ricorrere allo strumento, al metodo Monte dei Paschi, cioè iniettare di liquidità pubblica con il decreto salvabanche. Queste banche andavano dirette sul bail-in. Qualcuno mi dice: ma perché lei dice una bella notizia visto che i soldi sono nostri? Diciamo che non è una bellissima notizia, ma è una notizia meno cattiva dell'altra. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, spieghiamo perché e spieghiamo cosa capiterà adesso. Beh sì, la spada di Damocle era proprio questa cosa qui, nel senso che il bail-in avrebbe attaccato non solo gli azionisti, quelli sono azzerati a prescindere, avrebbe attaccato anche gli obbligazionisti senior, mentre con la risoluzione precauzionale, come dire, c'è un aiuto pubblico che non tocca gli obbligazionisti, quindi insomma... Teniamo conto che le obbligazioni senior valgono 13 miliardi sulle due banche, non è piccola cosa. E poi c'erano rischi anche per i correntisti eventuali. Beh sì, sopra i 100.000 euro, quindi il bail-in sarebbe stato, come dire, devastante. In una situazione già devastata di suo sarebbe stato, come dire, il colpo di grazia. E, è vero, sono soldi pubblici e lì c'è il fallimento pesante dell'intervento di Atlante, che non è colpa di Atlante, ma facendo i conti alla serva, hanno chiuso i bilanci, una perdendo 1,9 miliardi, l'altra 1,4. Atlante ha messo 2,5 miliardi praticamente neanche 12 mesi fa, tutti evaporati. Sì, va detto che sono soldi delle banche. Sono soldi delle banche, dire, esatto. Sì, ce la faranno pagare a noi, però intanto sono soldi per delle ora banche. Sono soldi delle banche. Da domani, sembra che la BCE dia il via libera, ma oramai sembra di capire che sia così, interviene questo fondo, questo scudo da 20 miliardi che è stato varato dal governo proprio per MPS e per le venete. Hanno chiesto, MPS dovrebbe prendersene 7,5 e chiedono 6,4 miliardi per le due venete, quindi di questo fondo da 20 miliardi in realtà impegnati diventano circa 7,8 per MPS, 6,4 facciamo un po' la somma, sono 14 miliardi che già vanno via di quei 20 per a questo punto mettere in sicurezza MPS e le due banche venete. Certo, finisce sulle spalle dei contribuenti, l'alternativa è stato un fallimento bancario con tutti gli strascichi del caso. Il tema però è che non basta mettere il capitale, cioè tutta la tragedia di questa vicenda è legata al fatto che ogni volta che metti capitale lo bruci un anno dopo, l'ha fatto Atlante. Ma infatti il dato che volevo leggere è sulla chiusura. Lo scorso 28 marzo, la Procura di Vicenza ha reso noto una perdita di 1 miliardo e 900 milioni di euro, complice anche un calo della raccolta, e questo è l'elemento più strutturale che deve preoccupare, che è sceso del 14% a 18 miliardi e mezzo di euro, mentre Veneto Banca ha diffuso i conti ieri, un rosso appunto di 1 miliardo e mezzo, principalmente a causa dei crediti deteriorati, ma anche lì si è ridotta la raccolta della clientela, meno 18%. Un calo dei depositi che sono scesi a 20 miliardi di euro. Beh, è chiaro insomma che tendenzialmente uno non va a mettere i soldi in questo momento. Però, siccome venerdì dovremmo avere, ce l'ha confermato, poi spero non abbia un impedimento all'ultimo minuto, dovremmo avere come ospite Fabrizio Viola, il numero uno delle due praticamente. A questo punto. Che cosa tu vorresti sapere da Viola? Vorrei sapere come si ripristina l'attività bancaria, perché il vero tema non è solo salvare col capitale, lì l'ho fatto Atlante, li ha persi, lo farà lo Stato, lì forse ne perderà una parte perché le perdite non sono mica finite, tutte e due hanno tuttora crediti malati che valgono due volte e mezzo al capitale, quindi dovranno continuare a rettificare i crediti e quindi anche il 2017 probabilmente chiuderanno ulteriormente in perdita. Il tema è che tutte e due hanno perso ricavi per circa il 30%. Allora, se tu perdi ricavi e in più hai le rettifiche su crediti malati, sei destinato a chiudere in perdita, per cui lì il tema è: adesso che ho messo il capitale, come faccio a ripartire i fatturati alle due banche? Questa è la grande sfida che Viola ha da compiere, chiederei proprio questo in un clima di sfiducia che si è prodotto dalla gestione di Zone Inconsole in poi e con tutto quello che ha comportato. Ricordo che dal 2014 le perdite sono state di 7 miliardi e mezzo per le due banche, cioè l'eredità della gestione di Zone Inconsole vale 7,5 miliardi per i bilanci delle due banche, dobbiamo tenerlo sempre presente. Il tema è che queste banche sono state scassate e non hanno più l'operatività, tenete conto che hanno dovuto chiedere la garanzia statale su due emissioni di bond a 3 miliardi perché non avevano più liquidità, cioè rischiavano anche di non pagare gli stipendi se non interveniva lo Stato con la garanzia sull'emissione di bond. Allora il tema è che queste due sono malate croniche gravi, il capitale serve, come dire, a rimetterle in carreggiata, però io mi chiedo come fanno a ripartire. Questa, cioè, è la a non vera... bruciare i soldi che gli stiamo dando noi. A non bruciare ulteriormente i soldi. Dopo aver già bruciato quelli del fondo del fondo Atlante. Devono riuscire a trovare un business che faccia di nuovo tornare i ricavi. Vuol dire far tornare la clientela che è scappata e avere il coraggio di fare una banca unica dalla fusione che inventi un modello di business che non faccia più, come dire, le cose abbastanza disgustose fatte da Zone Inconsole, che si facevano finanziare le azioni via concessioni di fidi. Questo non lo faranno mai più. Però trovi un modello che garantisca che il fatturato torni a salire. Ecco, questa è la grande incognita delle due banche venete. Allora, intanto ho subappaltato il mio lavoro a Pavesi, quindi mi ha già fatto le domande che dovrò fare a Viola. L'ultima considerazione è abbastanza certo, visto oggi una dichiarazione di Carrus, Cristiano Carrus, amministratore legato di Veneto Banca, che le due banche si fonderanno comunque. E questo è l'intento di Viola e Carrus, loro vogliono una banca unica e poter agire sui costi. Ovviamente quando metti insieme due cose complementari... Vuol dire però tagli dipendenti. Certo, ma infatti il tema vero è che probabilmente ci saranno esuberi. Sono 10.000 dipendenti totali, si parlava di 3.000 esuberi, 2.000, insomma siamo nell'intorno del 20-30% di taglio dei costi del lavoro. Sì, mi fanno notare che però le liquidazioni a Iorio e a prima di lui a Zonin, sì, è tutto vero. E Consoli, ma anche a Sorato sono state pagate. Farei anche un'altra domanda a Viola. Io so per certo che i CDA di Veneto Banca e Vicenza costano tuttora molto. Il solo amministratore legato Carus guadagna 1.100.000 di emolumento. Oddio, magari se li ha anche meritati, però non è che la banca è stata risanata. E forse adesso che diventa pubblica andrebbero, come dire, un po' calmierati gli stipendi ai grandi manager delle due banche. E gli faremo anche questo. Gli chiederemo anche questa cosa. Allora, grazie intanto a Fabio Pavesi. Visto che stiamo parlando di borsa danno notizia l'offerta pubblica di acquisto per la Parmalat o per riaperta dalla controllante Lactalis non è andata a buon porto, nel senso che Lactalis voleva delistare, cioè togliere dalla borsa Parmalat, perché ha raccolto un totale di 700.000 azioni rispetto a una soglia necessaria di 5.400.000 titoli. Quindi Parmalat resta in borsa, tra l'altro ha raccolto ben al di sotto, diciamo, della soglia necessaria. Sì, lì ci sono gli azionisti di minoranza, i fondi, praticamente Amber, che sostiene che Lactalis voleva delistare la Parmalat a un prezzo scontato e quindi sì, resistono. Diciamo, visto che ieri criticavamo i francesi sull'operazione Fincantieri, i fondi dicono che Lactalis, il valore vero di Parmalat è molto più elevato, sì, e quindi sono opposti. Posso, nella mia totale ignoranza, dare ragione ai fondi, perché sì, l'intera certo. operazione Lactalis sembrava, era un pochino, diciamo, opaca, non nel modo in cui si è svolta, ci mancherebbe un delisting, ma un pochino siccome tendeva a sminuire. Sai com'è andata Lactalis? Che Lactalis si è indebitata per comprarsi la Parmalat, poi si è comprata la cassa e la Parmalat e con quella si è ripagata il debito che l'aveva acquisita molti anni fa. Quindi si capiva che l'obiettivo non era Parmalat, ma era la cassa di Parmalat. Sì, ed è uno dei casi, visto che ieri elogiavamo alcune acquisizioni francesi che hanno valorizzato i marchi, mi riferivo soprattutto al mondo della moda, criticavamo pesantemente questo doppio giochismo, doppio pesismo francese, sì se sei tu a comprare Telecom, no se Fincantieri dopo deve rilevare dai sudcoreani la tua cantieristica, dice che sei aperto al mercato, ma poi in realtà non sei aperto a nulla, ma il caso Lactalis Parmalat sicuramente non rientra nei casi di valorizzazione dell'investimento, anzi c'è chi dice, tu l'hai appena fatto, di impoverimento o spoliazione del bene che hai comprato. Certo, uno potrebbe obiettare la Parmalat l'ha distrutta Callisto Tanzi, verissimo, e potrebbe anche obiettare che non si riuscì mai, con grosso scorno anche personale, perché insomma, uno sperava in una cordata italiana, nell'avere una cordata fatta dall'agroalimentare italiano a rilevare Parmalat, e quindi poi arrivò Lactalis. Sì, peccato che appunto Bondi aveva fatto un lavoro di revocatoria e aveva consentito di recuperare un paio di miliardi di cassa libera, e quindi è un peccato che gli italiani in quel frangente sono stati un po' alla finestra, su questo hai perfettamente ragione. Ma insomma dai, se abbiamo la potenza agroalimentare che abbiamo, bisogna cercare di aggregare una cordata e salvare la Parmalat, o salvare, mantenere l'italiana in quel caso, a mio avviso. Dopodiché, ripeto, ogni caso è un caso a sé, visto che ce ne sono altri virtuosi. Cosa rischiano Zonin e Consoli? Beh, c'è l'azione di responsabilità. C'è l'azione di responsabilità. So per certo che la Vicenza depositerà nei prossimi giorni in cancelleria al Tribunale di Venezia la sua azione di responsabilità. Sono 300 pagine di j'accuse della gestione Zonin Sorato. La cosa un po' paradossale è che Zonin ha giocato d'anticipo e 2 mesi fa ha depositato lui una denuncia contro la banca, sostenendo che, come dire, lui non sapeva niente, Sorato faceva tutto e quindi lui è imputabile solo per colpa e non per dolo. Questo per evitare il processo penale. Insomma, è un po' una commedia degli orrori, come insomma ha raccontato Penati quando ha detto: ho trovato un horror story nelle due banche venete. Ecco, questo è un po' paradossale che Zonin citi per primo la banca, come dire, dicendo che è lui che accusa la banca. La trovo un po' surreale dopo quello che è accaduto. L'abbiamo raccontata molte volte, quella bruttissima vicenda, tra l'altro di due banche che tra Vicenza e Treviso hanno distrutto qualcosa come 14 miliardi, 11 miliardi di per la precisione. Capitale erano 11 miliardi perché comprate a 60 euro erano 11 miliardi, poi ha perso 7 miliardi e mezzo, Atlante ne ha messi 2 e mezzo vanificati, oggi lo Stato ne deve mettere 6 e 4, questa è la vicenda detta in pillole. Grazie a Fabio Pavesi, andiamo sul traffico e poi il mattone. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. I wanna be free, set free. :22 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, è una inversione di tendenza e come tale la prendiamo, non è una grande inversione di tendenza, però per la prima volta dal quarto trimestre del 2011, nel quarto trimestre del 2016, quindi a distanza di 5 anni, si è registrato un aumento dei prezzi degli immobili, aumento tendenziale anno su anno, più 0,1%. dire, uno può dire, beh, più 0,1 è veramente un piccolo segnale. Sì, è un piccolo segnale, ma attenzione, nel 2015 in media i prezzi calarono del 2,5%, del 2,6%, e nel 2016 comunque, al di là dell'ultimo trimestre, il calo è stato dello 0,7%. Mario Breglia, presidente dei Scenari Immobiliari, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, i prezzi sono leggermente in aumento nell'ultimo trimestre. Con che distribuzione, in base al vostro osservatorio, quindi tipologia ma anche area geografica? E poi, in realtà, che tendenze avete avuto in questi primi mesi del 2017? Beh, intanto diciamo, confermiamo il dato dell'Istat, perché ormai da 2 anni il mercato immobiliare, i prezzi soprattutto delle case, hanno smesso di fare una discesa molto forte. Ricordiamo che durante la crisi, negli ultimi 8 anni, le quotazioni sono scese del 15% medie in termini nominali. E negli ultimi 2 anni c'è stato un rallentamento della discesa fino ad arrivare a questa inversione di tendenza che diciamo, sostanzialmente concordo con l'Istat, è stata nella seconda, nell'ultima fase dello scorso anno. Come capita spesso nelle medie e ancora di più in questa occasione, in realtà c'è un'oscillazione molto ampia, perché ci sono delle zone, soprattutto diciamo quelle di buona qualità nelle grandi città, in cui le quotazioni medie stanno già risalendo da diversi mesi e siamo a un più 2, un più 3%, con punte anche superiori. E zone periferiche o città piccole in cui le quotazioni continuano ancora a scendere, ma non di poco, ancora del 5-7%. Quindi siamo in una fase di mercato in cui c'è un cambiamento di tendenza, ma sicuramente non generalizzato e con una ripresa ancora fragile. Quindi non possiamo aspettarci un incremento. Noi prevediamo in tutto l'anno un più 0,5% delle quotazioni e resterà valida questa oscillazione, anzi dovrebbe allargare tra le zone buone che potrebbero arrivare a un più 4-5% e le città secondarie, le zone periferiche dove le quotazioni continueranno ancora a scendere. Allora mi chiedono alcuni ascoltatori, ma perché dovrebbe essere un male se calano i prezzi delle case? A me sembra un'ottima cosa. Beh, dipende da che punto di vista lo vede. Allora, diciamo, è complessivamente non una buona notizia, dipende dal punto di vista dal punto di partenza. Se sei in bolla è un bene se calano i prezzi delle case. Se invece vieni da anni di stagnazione, il fatto di non vedere ripartire il mercato immobiliare vuol dire che c'è anche poca fiducia. Dopodiché, anche un segnale negativo per l'economia. È appunto che c'è poca fiducia, c'è poca disponibilità economica. Il mercato immobiliare rappresenta circa il 15% del PIL italiano. No, no, ma certo. Ma tra l'altro è ovvio che sono la casa. Leggermente i prezzi vuol dire che c'è anche una iniezione di fiducia nell'economia, nelle persone che vogliono comprare casa, nei giovani che si sposano o convivono che si spostano. Cioè il riflesso della crisi immobiliare è una società stagnante. Sì, ma oltretutto da questo punto di vista è chiaro che se la casa la devi comprare non è una buona cosa, ma se la devi vendere è una buona cosa. E infine, ma la tengo per ultimo, molte, in primo luogo le banche, hanno nella loro pancia a garanzia il patrimonio immobiliare. È ovvio che più si svalutano i prezzi più si deprezza il patrimonio a garanzia, per cui complessivamente è un segno di maggior salute se un po' risale il prezzo del mattone. Dopodiché la bolla va male, ma mi sembra che qua il rischio bolla sia l'unico dei rischi che non corre il paese nel mattone, perché mi sembra che la ripresa forte e robusta l'abbiamo vista solo nei film, non certo nell'economia di questo paese. Lei ricordava, per concludere però, Breglia, grosse differenze a livello di area centrale di pregio e invece aree più periferiche o centri minori. Ci sono anche grosse differenze a livello regionale, geografico? Beh, questo sicuramente. Diciamo, se noi seguiamo la mappa dell'economia, abbiamo anche la mappa del mercato immobiliare. Le zone che soffrono di più a livello di occupazione, di mancata immigrazione da parte di lavoratori, da parte di giovani, sono quelle che soffrono. Queste ovviamente le zone buone come parte del nord, Milano in testa, hanno un mercato diciamo relativamente effervescente, stiamo sempre un po' sopra lo zero, e quelle invece le zone interne, ma zone interne non solo del sud, anche la grande pianura lombarda, i capoluoghi minori stanno soffrendo perché hanno un'emorragia di persone verso i capoluoghi più importanti. Anche qua il mercato immobiliare soffre. Allora, grazie anche a Mario Breglia, responsabile di scenari immobiliari. Presidente. Allora, due precisazioni. Sì, ho detto il Cansiglio per Tervigia, avevo precisato che mi ero sbagliato, è l'altopiano di Montaggio, che dovrei anche essermi ricordato, essendo un amante dei formaggi, il Montaggio è un gran formaggio dal peggio, e invece un ricordo, per quello che vale il mio ricordo, al grande politologo che è scomparso oggi, Giovanni Sartori, è stato anche in maniera immeritata mio docente, ha portato la scienza della politica in questo paese, scompare un grande italiano, un grande intellettuale. Per ora e per questa puntata è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.